Capitolo 10. Wittenberg, marzo 1522. Cammino in fretta, quasi scivolo nel fango. Il fiato mi precede tagliando il gelo del mattino. Nel cortile dell'università, Cellario sta parlando con alcuni amici. Lo raggiungo e lo trascino in un angolo, lasciando ammutoliti gli altri. Carlo Stadio è finito! Cupo quanto me. Te l'avevo detto. Hanno allungato il guinzaglio a Lutero. Il buon rettore sarà scacciato. Già, troppo buono, hai giorni contati. Il tempo che lega nel mio sguardo, la determinazione poi... Ho deciso, Cellario. Lascio Wittenberg. Qui non c'è più niente per cui valga la pena restare. Un attimo di panico sul suo volto. Sei sicuro che sia la cosa giusta da fare? No, ma sono certo che la cosa giusta non è rimanere qui. Hai sentito cosa sostiene quell'infame di Lutero da quando è tornato? Annuisce, abbassando gli occhi, ma io continuo. Dice che è dovere del cristiano obbedire ciecamente all'autorità, senza alzare mai la testa. Che nessuno può osare dire di no. Lui ha disobbedito al Papa, Cellario, al Papa, alla Chiesa Romana, ma adesso è lui il Papa e nessuno deve fiatare. È sempre più scuro e avvilito sotto i colpi delle mie parole. Sarei dovuto partire 2 mesi fa, insieme a Stübner e agli altri. Ho aspettato anche troppo. Ma volevo sentirlo parlare, Lutero. Volevo sentire quello che ho sentito dalla sua stessa voce. Dammi retta, l'unica speranza è fuori di qui. Una mano a spaziare verso la campagna che si stende oltre i muri. Colui che viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra? Appartiene alla terra e parla della terra, ricordi? Sì, le parole di Münzer. Lo troverò, Cellario. Dicono che sia dalle parti di Halle adesso. Mi sorride zitto, agli occhi lucidi. Sappiamo tutti e due che vorremmo partire insieme. E sappiamo anche che Martin Borghaus, detto Cellario, non è il tipo da gettarsi in un'impresa del genere. Mi stringe forte la mano, quasi un abbraccio. Allora, buona fortuna, amico mio, e che Dio sia con te. Arrivederci, in un posto e in un tempo migliori.